La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al cosiddetto armadio della vergogna, nell'armadio sito a Palazzo Cesi, sede della Procura Generale Militare di Roma, in cui erano custoditi 695 fascicoli delle stragi compiute dai nazifascisti nel nostro paese dopo l'8 settembre 1943. Il pericolo oggi è l'oblio, è dimenticare quelle drammatiche vicende, come denuncia Franco Giustolisi, oggi ospite ai nostri microfoni. Ma ora la parola va a Dino Pesole. La scorsa settimana abbiamo parlato degli effetti della sentenza della Corte dell'Aia del 3 febbraio, con la quale è stato accolto il ricorso della Germania contro l'Italia per ottenere il blocco degli indennizi ai familiari degli internati militari italiani nei campi di concentramento nazisti e delle vittime dei crimini commessi dai nazisti dopo l'8 settembre del 43. Oggi torniamo sull'argomento perché anche sull'onda di tale discussa sentenza si è tornato a parlare del cosiddetto armadio della vergogna, armadio che conteneva i fascicoli delle stragi compiute dai nazifascisti in gran parte a danno di civili. Il pericolo è l'oblio, una colpevole dissoluzione della memoria, denuncia Franco Giustolisi, autore di un libro pubblicato alcuni anni fa da Nutrimenti e che ha organizzato ora per il prossimo 5 giugno un'iniziativa al Teatro dei Servi a Roma proprio per rievocare quelle drammatiche vicende. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito, Giustolisi. Grazie a voi. Ricostruiamo prima di tutto la vicenda. Nel cosiddetto armadio della vergogna, chiuso, sigillato, con le ante rivolte verso la parete, abbandonato all'oblio in una polverosa stanza inaccessibile al pian terreno di Palazzo Cesi in via degli Acquasparta a Roma, sede della Procura Generale Militare, erano custoditi i 695 fascicoli delle stragi compiute dai nazifascisti nel nostro paese dopo l'8 settembre 1943. Nomi, località, ormai nella memoria storica degli italiani. Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, Bolzano, le Fosse Ardeatine. Circa 15.000 vittime tra i civili, tra cui vecchi, donne e bambini. Per decenni, il contenuto di quell'armadio è stato occultato, sottratto alla verità, al giudizio della storia, oltre che a quello dei tribunali. Una pagina oscura per il nostro paese. Una pagina oscura, una vicenda, lo ricordo ai nostri ascoltatori, che trae origine alla metà degli anni 50 del secolo scorso, quando il procuratore militare generale Arrigo Mirabella concorda con il Ministero degli Esteri una linea ispirata alla cosiddetta ragion di Stato. Il ministro degli Esteri era Gaetano Martino, che inviò il 10 ottobre del 1956 al ministro della Difesa Paolo Emilio Taviani questa lettera. Sono convinto che coloro i quali presero parte a così barbare azioni non meritino personalmente alcuna clemenza. Non posso tuttavia nascondermi la sfavorevole impressione che produrrebbe sull'opinione pubblica tedesca e internazionale una richiesta di estradizione da noi avanzata al governo di Bonn. Non ho bisogno di sottolineare a te, che segui da vicino i problemi della collaborazione atlantica ed europea, quali interrogativi potrebbe far sorgere da parte del governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento dei soldati tedeschi. Proprio in questo momento, infatti, tale governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo, allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate di cui la NATO reclama con insistenza l'allestimento. Ecco dunque la ragion di Stato di cui parlavamo prima. In piena guerra fredda, la NATO aveva bisogno della Germania per contrastare la superpotenza sovietica. Sarebbe stato, come dire, inopportuno dar vita a un contenzioso con la Germania per i crimini commessi dai nazisti. Si arriva così al 14 gennaio del 1960, quando il procuratore generale militare Enrico Santa Croce decide di procedere all'archiviazione degli atti, secondo la formula dell'archiviazione provvisoria. Solo nel 1994 Antonino Intelisano, procuratore presso il Tribunale Militare di Roma, si imbatte nell'ambito del processo contro Erich Priebke nel famoso armadio con i 695 fascicoli occultati dai tre procuratori generali Borsari, Mirabella e Santa Croce. Stiamo parlando di 280 fascicoli a carico carico di ignoti, 415 con notizie circostanziate sui militari indiziati di crimini di guerra. In totale, nei fascicoli sono contenute ben 2.274 notizie di crimini. Stragi per gran parte senza colpevoli. Allora, la prima domanda a Franco Giustolisi, che ha organizzato appunto al Teatro dei Servi a Roma il 5 giugno questa importante iniziativa. Iniziativa che punta ad abbattere il muro del silenzio, questo è il titolo dell'iniziativa, cioè c'è il rischio dunque che con il passare del tempo si dissolva anche la memoria di questo drammatico capitolo della nostra storia, Giustolisi? Ma certo, non solo c'è il pericolo, ma così è stato, perché la più grande tragedia italiana per il numero dei morti, fuori discussione la più grande tragedia italiana, perché sono decine e decine di migliaia di civili e nella Maggiore Vergogna, ricordiamoci, c'erano anche le stragi commesse ai danni dei nostri militari uccisi, massacrati dopo aver alzato bandiera bianca, come a Cefalonia, a Co, a Lero, a Rodi, a Corizza e chissà dove altro ancora, quindi un numero enorme. È la più singolare al mondo per le sue caratteristiche: chi ha mai nascosto in un armadio i fascicoli delle stragi, chi poi quando questi fascicoli sono usciti fuori l'ha tenuti in un angolo, in un cantone perché non se ne parlasse, eccetera. Questi processi che non sono stati seguiti da nessuno, dalla stampa, questi processi difficilissimi fatti dai magistrati militari che poi dopo il 1980 non sono più come erano un tempo soggetti al potere politico, per cui il governo aveva detto chiudete, nascondete questi fascicoli, ma sono diventati come gli magistrati ordinari. Ma tutto questo si può giustificare con la ragion di Stato? Ma si può giustificare forse con la ragion di Stato nel 46-47 quando avvenne, ma dopo per quale motivo? Io non capisco, mi sono battuto, ho cercato, ho fatto, ho detto, eccetera, eccetera, e poi ho scoperto per caso, mi è stato raccontato, non ho le prove di quello che dico, ma è l'unica giustificazione possibile, che la Germania con un'opera capillare, avvicinando istituzioni, credo anche l'AMPI, perché ecco per esempio l'AMPI nazionale nel 2008 a Cervia, in un convegno nazionale con 300 delegati si fa un ordine del giorno su questi temi qua, approvato all'unanimità, viene annullato, quindi ci deve essere dietro la Germania che in qualche modo è riuscita a far che tutto questo venisse coperto, ed è assurdo, ma del resto i processi che sono stati fatti non possono rimanere così per aria, certo. I processi devono avere una loro conclusione, anche siccome ci sono stati molti assolti, tra l'altro. E anche molte condanne. Però. Sì, alla fine del 2010 erano 21. Qualcuno nel frattempo di questi qui, che sono molto anziani, sono morti, certo. Sarà morto, saranno adesso 15-16, ma ci sono altri processi in arrivo, come per esempio quello che inizia il 15 giugno a carico di un atto degli assassini di Cefalonia, che è stato individuato, ha confessato, ha detto, mettevamo anche le mani in tasca, prendevamo le fotografie, prendevamo gli orologi alle vittime, ai soldati, ai militari italiani che si erano arresi. Il più grande delitto di tutte le guerre moderne, fu detto al processo di Norimberga da Publio accusatore del Forteo. Già, perché poi noi parliamo delle vittime civili, ma poi vanno aggiunti i militari, certo. Cefalonia, quindi certo. Saranno molti, molti di infatti, più. Infatti in questo armadio c'erano i fascicoli di quelli che ho detto, appunto Cefalonia, Co, Lero, Rodi, eccetera. Nascostamente gli assassini di Rodi, mi sembra 12 o 14, se non mi ricordo, gli ufficiali tedeschi che furono condannati, erano in Italia, poi nascostamente furono graziati, grazie alle pressioni di De Gasperi, su quale aveva fatto pressione Adenauer, e nascostamente, perché questa cosa è saputa dopo, il presidente della Repubblica del tempo, Einaudi, concesse la grazia. Ma in questo non è che poi la sentenza dell'AIA del 3 febbraio aiuta molto nella ricostruzione magari dell'accertamento della verità. Diciamo, quella è un altro aspetto, è un'altra cosa. Io come una persona di normalissimo buonsenso dico vengono fatti processi, vengono individuati gli assassini, alcuni vengono assolti perché si ritiene non responsabili, giustamente vanno lasciati liberi, questi altri devono pagare la pena. Cioè non è che dice vieni, portali in Italia e stradali, no, perché c'è questa regola del governo tedesco per cui ogni cittadino tedesco per essere stradato deve dare il suo consenso. Ma intervieni presso il governo tedesco e di sono stati condannati, metteteli agli arresti, visto che sono vecchi e domiciliari in Germania. Pensa che nel 2009, nel 2010 e nel 2011 i procuratori generali militari si sono rivolti nell'apertura dell'anno giudiziario militare, che avviene circa a metà febbraio, ai ministri della difesa, della giustizia, e quindi faccio i nomi, La Russa, Alfano e implicitamente quello degli esseri, Frattini, per dire fate qualcosa, intervenite. Invece niente, non hanno avuto risposta, nulla. Si fa come se si arrampicasse sul vetro, perché si ha paura di qualcosa, di cosa? Io credo che la Merkel fa bene, adesso non voglio parlare di economia, certo. le regole che vuole mettere, il rigore, eccetera, eccetera. Ma su questo qui, sulla storia, la memoria della giustizia dell'Italia, tu non puoi far questo. E tu, Germania, fai bene a fare quello che fai, ma tu, Italia, fai male. E perché non interviene? Non dici nulla. Io ho cercato più volte in questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi direi, da un mese e mezzo, di intervistare la Severino, ministra della giustizia, che tra l'altro a suo tempo nel 2003-2004 fu vicepresidente del CMM, cioè il Consiglio della Magistratura Militare, e fu proprio lei tra l'altro a sbloccarmi da pastoie burocratiche il carteggio cui tu accennavi, quello del le lettere da Martino e Taviani, quindi conosce bene le cose, ma non c'è verso neanche di parlare, cioè nessuno vuole, su questo vuole dire né A né B, i fatti sono sicuramente questi, le decine di migliaia di morti ci sono, che sia una tragedia italiana lo è, e perché non se ne parla? Bene, allora speriamo che con questa iniziativa del 5 giugno si riesca comunque. Io penso perché ecco, quando c'è qualche politico, Dino, come sai, allora i giornali parlano, se non c'è il politico i giornali non parlano. Speranza che questo avvenga. Grazie a Franco Giustolisi e buona serata. Grazie a voi.